Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e benvenuti a Tam Tam Europe. In questo pillole che vanno in onda quattro volte al giorno vi raccontiamo tutto ciò che riguarda i migliori artisti e canzoni del rock e non solo. Oggi under the spotlight are Semisonic. Sono stati nominati nella categoria di migliore canzone all'American Grammys, però questo è stato vinto da Matchbox 20 con Smooth. Dan Wilson, il cantante, dice che i Semisonic hanno scelto il suo nome perché galleggiano tra il sonic rock rumoroso e il sexy groovy soul. Sono diventati un grande successo circa un anno fa col brano Closing Time. Infatti dicono che si sono resi conti quanto erano diventati famosi in Europa quando hanno sentito Closing Time in un taxi a Milano. Noi vi proponiamo il loro singolo mixato da Tom Lord Alge, Nessuno lo sa, ma tu hai un sorriso segreto e lo usi soltanto per me. Questo è tutto per ora. Se ci volete segnalare brani o gruppi da ascoltare in Tam Tam Europe, chiamatelo 081 790 14 11 o inviate un messaggio alle 0348 24 38 888 dalla nostra redazione di Londra e da Fergal Kavanagh di Semisonic con Secret Smile. Alla prossima. Tam Tam Europe. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So you around and around the world, and I'm lying lonely. I know there's something sacred and free, reserved and received by me only. Ci sono i Semisonic alle 17:17 minuti, mentre noi ringraziamo Fergal e la nostra redazione di Londra. Facciamo una piccolissima pausa e tra poco assisteremo alla consegna in diretta del bacio in tour con i nostri agenti Lara 007 ed eccezionalmente Ago 009. SPOT Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Voi state ascoltando Tam Tam Europe, pelle di rock e altro che vanno in onda 4 volte al giorno. E parliamo un po' di Wim Wenders, il regista tedesco che ultimamente si sta impegnando nel mondo musicale. L'anno scorso è uscito Buena Vista Social Club, un viaggio musicale a Cuba, e tra poco vedremo The Million Dollar Hotel, il quale è stato scritto da Bono degli U2. E questa collaborazione musicale di Wenders non è una novità. Infatti nel 90 ha lavorato con un gruppo emergente delle scene italiane. Parlo di Temoria. E il video del singolo Milano, non è l'America, contiene immagini inedite di Wenders. 10 anni dopo, i Temoria sono sempre molto attivi. Infatti adesso stanno facendo le prove per il prossimo album. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 14 11 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Vi lasciamo con Timoria e Bella Bambola. Da Tam Tam Europe e Fergal Kavanagh, ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Com'era questa canzone? Qual era il titolo? Furia il cavallo del West? Insomma, io cerco poi di sdrammatizzare tutto, e perché poi di musica non capisco praticamente nulla. Sono di quelli che consumo. Ma poi non è manco vero, insomma, non è forse il genere musicale mio. Va bene, grazie a Fergal Kavanagh, o Kavanagh mi sembra più che Canava, dalla nostra redazione di Londra. Bella, bella la nostra redazione di Londra. E saluto anche alcuni dei nostri amici che si sono trasferiti su e facevano gli speaker prima, adesso invece fanno le pulizie. Complimenti! SPOT Spot Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Voi state ascoltando Tam Tam Europe, pelle del rock e altro che vanno in onda 4 volte al giorno. Ed il rock è qualcosa che segue proprio il fashion. E quando c'è un grande successo musicale, le case discografiche fanno di tutto per replicare il successo con altri gruppi. Qualche anno fa si parlava molto di girl power, questo trend spinto dalle Spice Girls, e da allora vediamo molto successo nel rock femminile. Il gruppo che vi proponiamo sul Tam Tam Europe adesso ha preso il suo nome dal grande attrice Audrey Hepburn. Parlo della Hepburn, e la casa discografica descrive il suo album come bursting with hooks, top tunes and a huge slab of foxy fierceness. Noi vi facciamo ascoltare il singolo Bugs, e magari qua sentirai l'influenza dei grandi Nirvana. Se ci volete scrivere o proporre brani a gruppi di ascoltare, l'indirizzo è fergal@radiotour.it. Questo è tutto per il momento, vi lascio con la Hepburn e Bugs. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Yeah. un'altra pillola di rock su Radio Tour The Moving Station, grazie a Fergal e alla nostra redazione di Londra. Un altro appuntamento con Tantam Europe, la vostra daily dose of rock sulla Radio Movimento. Sono le 21:18 in RTV 106, ci prendiamo una piccolissima pausa, ci risentiamo tra pochissimo con un altro grande disco. Quale? Quello di The Blowdown Gang. S-P-O-T Spot Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e benvenuti a Tam Tam Europe, la pillola di rock messo in onda 4 volte al giorno, in cui raccontiamo tutto ciò che riguarda i migliori artisti e canzoni di rock e non solo. Allora, sappiamo tutti che i Cooler Shaker sono stati molto influenzati dalla musica indiana, ma questa influenza è anche evidente nella musica di alcuni artisti italiani, soprattutto nella musica del gruppo fiorentino Govinda. Hanno preso il nome dal pifferai magico della tradizione indostana e la cantante Maureen viene dallo Sri Lanka. Poi non è solo con le influenze musicali che assomigliano alle Cooler Shaker. In quanto Hey Dude è un sorto di saluto a Hey Jude dai Beatles, Govinda scelgono i titoli del loro album in base ai vecchi classici. Il suo primo album, Selling in India by the Pound, è come un titolo di un album dei Genesis, mentre l'ultimo album, Atom Hearts Madras, è liberamente tratto da un titolo di un album dei Pink Floyd. Questo è tutto per ora. Se ci volete segnalare brani o gruppi da ascoltare in Tam Tam Europe, chiamate allo 081 790 1411 o inviate un messaggio alle 0348 24 38 888. Dalla nostra redazione di Londra e da Fergal Kavanagh vi lascio con Govinda e Exotica. Alla prossima. Tam Tam Europe. Questa sonorità non mi è nuova perché è appartenuta già al passato. musicale di Radio Tour, The Moving Station, Govinda Exotica, grazie a Fergal che ha curato un altro appuntamento con Tantam Europe, le vostre pillole di rock quotidiane sulla Radio Movimento. Sono le 23.17, voglio salutare anche Ugo, Lucilla e Pasquale che sono appena entrati in contatto con noi. Restate in sintonia, in perfetta sintonia, anche dopo la pubblicità. Tour, The Moving Station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Phil the Rock messo in onda quattro volte al giorno on Radio Tour, The Moving Station. Allora, parliamo degli Elastica di Justin Frischman, che hanno un nuovo album che esce tra poco. Justin, prima di essere negli Elastica, suonava per gli Suede e stava insieme a Brett Anderson, il cantante della band. Loro sono rimasti buoni amici e Brett dice che secondo lui il nuovo album degli Elastica è molto forte, ma che ci sono stati fuori dalla scena musicale troppo tempo per avere molto successo. E infatti il nuovo album degli Elastica è appena uscito ed è bello. Saremo a vedere quanto vende. Vi ricordo il nostro indirizzo email per segnalarci brani o gruppi da ascoltare in Tam Tam Europe, fergal@radiotour.it. Do Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e do Fergal Kavanagh. Vi salutiamo col primo singolo dall'ultimo album dei Suede. Questo è Electricity. Alla prossima. Tam Tam Europe. We got a lot of questo è stato un quarto d'ora storico. Prima con Santana, poi con The Cranberries, Zombie, poi Madonna con American Pie e adesso Lee Shred. Grazie a Fergal, ho un'altra pillola di rock con la nostra redazione di Londra. Quattro pillole al giorno, questa era l'ultima del 14 marzo 2000. Si ricomincerà da domani pomeriggio all'interno di Baci in Tour. Restate sintonizzati, ci prendiamo una piccola pausa e ci risentiamo tra poco. S-P-O-T. Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and this is Tam Tam Europe. In questo pillole che vanno in onda quattro volte al giorno vi raccontiamo tutti i fatti più interessanti del mondo del rock e non solo. Ed essere un star non è sempre un grande piacere. Per arrivare al primo posto nelle classifiche c'è bisogno di fare un sacco di public appearances and interviews, ma questo tipo di vita comporta sempre le sue vittime. Segnaliamo i New Radicals, che si sono sciolti perché il leader del gruppo, Greg Alexander, si è stufo del lavoro di promozione da svolgere e da ora in poi si concentrerà sulla composizione di pezzi per altri artisti. Però qua, sul Tam Tam Europe, vogliamo ricordare la bella musica dei New Radicals. Ci potete segnalare gruppi e brani da ascoltare all'indirizzo email fergal@radiotour.it e da Fergal Kavanagh e la nostra redazione di Londra vi salutiamo con i New Radicals e un giorno sapremo, someday we'll know. Alla prossima! Tam Tam Europe. Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds the stars up in the sky? It's true love just once in a lifetime. Did the captain of the con Someday We'll Know in un'altra pillola di Tam Tam Europe qui su Radio Tour The Moving Station. S-P-O-T Spot. Radio Tour The Moving Station. present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello and welcome to Tam Tam Europe. This is Fergal Kavanagh che vi porta tutte le notizie di rock più belle della nostra redazione di Londra al centro dell'Europa. Elisa, la giovane italiana che canta in inglese, ultimamente quando ha diffuso un annuncio cercando un rapper di madrelingua inglese che collaborasse con lei ad un brano del suo nuovo album, ha avuto centinaio di risposte e adesso la scelta è stata fatta. Un press statement ha detto: la ricerca è stata coronata dal successo e siamo molto lieti che sia proprio un fan di Elisa e non un professionista affermato a partecipare ad un brano del suo nuovo disco. Non abbiamo dubbi che il feeling in studio sarà quello giusto e questo potremo scoprirlo quando uscirà il suo nuovo album. Allora su Tam Tam Europe on Radio Tour The Moving Station vi salutiamo ricordandovi che l'indirizzo email è fergal@radiotour.it. Questo è Elisa con Cure Me, alla prossima. Tam Tam Europe. From all the stuff I always have to bring with me, and I swear it's a daily habit, not a way to hide something. But you better know that I'm so blind. I wouldn't take my eyes off the smoke from the candle. L'album di Elisa quando è uscito, all'interno del quale c'era anche questa Cure Me veramente eccezionale, anzi mi chiedo che fine abbia fatto Elisa, perché a me piaceva tantissimo la musica che proponeva, cioè un modo eccezionale di fare il rock a modo suo, e speriamo che torni presto, anche perché era portata da Caterina Caselli, quindi secondo me sicuramente ci sarà qualche altro progetto in porto. Noi ringraziamo la redazione di Londra, il nostro Fergal, facciamo una piccola pausa, tra poco Just For You. S-P-O-T Spot. Macchina fotografica del Mani, della moglie del critico. Pugni sono stati tirati e lo Hollywood Reporter non recenserà il film Beat. Proprio un story di celebrity questo. Allora da Tam Tam Europe on Radio Tour The Moving Station vi salutiamo ricordandovi il nostro email fergalcavanagh@radiotour.it. Questo è Courtney Love con il suo gruppo Hole con Celebrity Skin. Alla prossima. Tam Tam Europe. Oh, make me over. Look at my face. My name is Mighty. British Skin, noi facciamo una piccola pausa, ringraziamo comunque la nostra redazione di Londra e il nostro Fergal. Piccola pausa, tra poco l'appuntamento con Bacin Tour. SPOT Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock and non solo su Tam Tam Europe. Quattro pillole al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra su Radio Tour, the moving station. E parliamo di Damon Albarn, cantante dei Blur, che sta facendo molto esperienza nel mondo del soundtrack. L'anno scorso ha collaborato con Michael Nyman per la musica del film Ravenous e adesso arriva la notizia che ha registrato ben 5 pezzi da solo per un film che racconta la vita di The General, il re dell'organized crime a Dublino negli anni 70. Il film si intitola Ordinary Decent Criminal con Kevin Spacey e la colonna sonora è appena uscita. Albarn canta su 3 dei suoi brani, mentre altri 2 sono pezzi strumentali. E con i Blur, Damon Albarn è anche presente nel soundtrack di The Beach, il nuovo film di Leonardo DiCaprio. If you want to call us here on Tam Tam Europe, the number is 081 790 1411 or send a message to 0348 24 38 888. Dalla nostra redazione di Londra e da Fergal Kavanagh vi lascio con i Blur dal 97 e Beetlebum. Alla prossima! Tam Tam Europe. Fa questo dei Blur, Beetlebum, che tra l'altro anticipa l'uscita poi del loro lavoro. Noi ringraziamo Fergal, la nostra redazione di Londra, facciamo una piccolissima pausa e tra poco assisteremo all'ultima consegna pomeridiana, quindi per quanto riguarda quest'oggi, del Bacio in Tour. SPOT Spot Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock and non solo su TamTam Europe. Quattro pillole al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. E quando si pensa all'Irlanda, magari si pensa agli U2, ma anche ai Cranberries. Con più di 28 milioni di album venduti in 6 anni, hanno conquistato il mondo del rock. Il terzo album To The Faithful Department non è stato bello quanto i primi due. E infatti adesso la cantante Dolores O'Riordan confessa che a causa della pressione generata dal successo, meditava di farla finita. Dice, una notte il mio esaurimento nervoso ha raggiunto il suo apice. Volevo solo una cosa, farla finita con tutto. Non vedevo altro via di uscita. Adesso Dolores è diventata madre e le cose sono cambiate. Dice che avere un figlio ha risolto molti dei miei problemi. È meraviglioso pensare che c'è qualcuno che mi voleva bene per chi ero e non perché ero famoso. E si sente sull'ultimo album, Bury the Hatchet, che Dolores sta molto meglio. Sul TamTam Europe vi salutiamo e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.radiotour.it. Do Fergal Kavanagh, questi sono i Cranberries con Just My Imagination. Alla prossima! TamTam Europe. Radio Tour The Moving Station, ringraziamo chiaramente Fergal per quest'altra pillola di rock che ci ha regalato in diretta dalla nostra redazione di Londra. Ce ne sono quattro ogni giorno, due nel pomeriggio e due nella sera di Radio Tour The Moving Station. Sono le 21:17, potete inviarci un messaggio allo 0348 24 38 888. Saluto già Barbara che ce ne ha mandato uno, Luca, Danilo, Fabiana e Marcello. Ci sentiamo tra poco. SPOT.